Benvenuti a tutti, puntata numero 20 di NBA Week, la trasmissione settimanale sulla stagione NBA 2016-2017 su Radio Big World. Si procede a grandi passi verso i playoff e mai come adesso è opportuno dare un occhio alle classifiche per provare a prevedere o quantomeno ad analizzare quello che succederà nei prossimi giorni. Iniziamo dunque con il fare il punto della situazione delle due conference, intervallando la situazione al mashup settimanale. Iniziamo da Ovest, dove i playoff saranno sicuramente molto interessanti, ma la struttura dello scacchiere probabile è abbastanza più semplice o quantomeno definitiva rispetto a quello dell'Est. In testa alla Conference e all'intera Lega si confermano anche in questa stagione i Golden State Warriors. Ad un passo dal rientro di Kevin Durant, la squadra sembra aver trovato senza KD l'equilibrio che apparentemente avevano perso nel periodo immediatamente conseguente al suo infortunio. 12 vittorie consecutive aggiornate al 5 aprile, con uno Steph Curry scatenato che sembra veramente sul punto di raggiungere l'apice della forma alle porte del momento più importante dell'anno. Di fatto gli Warriors chiudono la questione primo posto ad Ovest, sconfiggendo i San Antonio Spurs il 29 marzo. Lo fanno con una rimonta strepitosa dopo essere andati piuttosto sotto nel primo quarto. Nel secondo quarto chiudono in vantaggio con un parziale di 37-24 e a fine partita la vittoria è per 110-98. Per gli Splash Brothers ci sono 29 punti di Steph Curry e 23 di Klay Thompson, ma è importantissimo l'apporto della panchina, soprattutto di un super David West da 15 punti e dai 14 punti di Andre Iguodala con due triple. Gli Spurs chiudono la partita tirando decisamente peggio dal campo, con il 41% di squadra. Statisticamente chi non delude è Danny Green con 4 su 6 da 3 punti e un Paul Gasol da 18 punti, 8 rimbalzi e 5 assist partendo dalla panchina. Non benissimo al tiro Kawhi Leonard e la Marcus Aldridge. San Antonio resta comunque saldissimo al secondo posto ad Ovest, ma la prospettiva è quella di giocare una potenziale finale di conference contro gli Warriors con il vantaggio campo sfavorevole. Sarà già tanto comunque arrivarci in finale di conference, perché in post-season ad Ovest c'è indubbiamente un'altra squadra che si può mettere fra queste due e indubbiamente dar fastidio. Si tratta degli Houston Rockets, che però in settimana sono stati anche loro castigati dai Golden State Warriors, esattamente il 31 marzo. 107-98 per gli Warriors, malgrado il solito apporto da dietro l'arco di Ariza e Gordon. Partitaccia per lo Williams, non brillantissimo James Harden, seppur capace di chiudere con 17 punti, 12 rimbalzi e 8 assist, ma 4 su 18 dal campo. Ancora fondamentale Iguodala con 14 punti dalla panchina per gli Warriors. Per gli Splash Brothers 20 di Thompson, 24 per Curry, che si conferma leader assoluto della miglior squadra della Lega e non è certo cosa da poco. Da sottolineare in tutto questo il solito apporto decisivo di Draymond Green, anche quando non segna con continuità o meglio con precisione dal campo. Nella vittoria contro Washington di domenica notte, Draymond chiude in tripla doppia con 12 rimbalzi, 13 assist e 11 punti. Questo perché comunque ci pensa Curry a offrire una prestazione devastante, chiudendo con 9 su 14 da 3 punti e 42 punti totali. Dalla panchina per gli Warriors ci sono anche 17 punti per uno Sean Livingston importantissimo e il solito contributo di West, Iguodala e di un buon Javalone McGee. 23 da ottimo secondo violino anche per Klay Thompson. Washington scivola così al quarto posto ad Est, ma ne parleremo dopo. Gli Warriors, come detto, all'undicesima vittoria consecutiva in quel momento, si confermano squadra in super forma. Speriamo che il rientro di Durant non rompa troppo gli equilibri ritrovati. Di fatto, malgrado infortuni e imprevisti, se l'obiettivo era quello di arrivare a questo punto della stagione con il miglior stato di forma dell'anno, Steve Kerr può ampiamente ritenersi soddisfatto, soprattutto per l'espressione di gioco offerta dai suoi in questa parte finale di stagione. Anche contro i Timberwolves, nell'ultima gara della nostra settimana, Warriors stravincenti e prendenti il largo nel secondo tempo di gioco, quindi negli ultimi due quarti. Il protagonista è Klay Thompson con 41 punti, 8 su 9 da 3 punti, praticamente perfetto. Tornando sulla conference, saldi quindi gli Spurs al secondo posto e i Rockets al terzo. Utah e Los Angeles Clippers sono praticamente appaiati al quarto e al quinto posto e quindi destinati a sfidarsi nei playoff. È solo questione di vedere chi delle due avrà il vantaggio del campo contro l'altra, qualificandosi quarta. Al momento i quarti sono i Jazz. Vicinissima al sesto posto OKC e Memphis. La questione è importante soprattutto per capire chi tra Houston e San Antonio dovrà incontrare il Westbrook indemoniato di questo finale di stagione. Mettersi a citare la settimana devastante di Russell, malgrado i risultati di squadra al solito altalenanti, sarebbe uno spreco di tempo. Riassumiamola così. Nelle ultime 13 partite, 11 triple doppie per il numero 0. La sua 40esima triple doppia stagionale arriva nella domenica notte, nella sconfitta casalinga contro Charlotte. 40 punti, 13 rimbalzi e 10 assist. Soprattutto a gara già conclusa, nessuna voglia da parte di Westbrook di smettere di provarci come un indemoniato. A questo punto era a solo una tripla doppia di distanza dal record di Oscar Robertson per triple doppie totali in una stagione. Lo pareggia nella notte del 4 aprile con una prestazione essenziale contro Milwaukee e probabilmente, oltre ad eguagliare questo record, riuscirà anche a superarlo riscrivendo la storia, superando la quota 41, quindi andando sulle 42 triple doppie totali stagionali e chissà quante altre. Oddio, mi penso che gli restino 5 partite ancora. Vediamo un po'. Contro i Bucks, in 27 minuti Westbrook chiude con 12 punti, 13 rimbalzi, 13 assist. La prossima presumibile gara di OKC potrebbe essere quella del record di sempre. Se seguite questo podcast e avete ascoltato l'ultima puntata, sapete già come la penso. Anzi, potevo essere ancora più ermetico sulla questione. Ci sono 3 lettere per descrivere l'ultima settimana e più generalmente la stagione di Russell Westbrook. Una M, una V e una P. MVP. Chiudiamo con la lotta per l'ultimo posto a Ovest, con Denver distanziata di una sola partita dai Portland Trail Blazers al momento all'ottavo posto. Anche qui c'è quello che un tempo sembrava un segreto ma ormai è diventato una garanzia, la seconda consueta metà di stagione spaziale per Damian Lillard. Prima dello Star Game lo zero dei Blazers viaggiava con 25 punti e il 34% da 3. Dopo lo Star Game tutte le sue cifre sono migliorate, partendo dai punti che sono quasi arrivati a 30 punti di media partita, nella seconda metà ovviamente di stagione. Gli assist che sono 6 di media, la percentuale di tiro dal campo che sfiora il 50% e oltre il 40% da dietro l'arco dei 3 punti. Denver non perde ovviamente le speranze di rincorsa, avendo ritrovato di fatto però anche il miglior Danilo Gallinari, in particolare nella notte del 2 aprile con 29 punti e 5 rimbalzi e soprattutto un'ottima vittoria in casa di una squadra in piena corsa per rientrare nel tabellone playoff ad est come i Miami Heat. Tuttavia, se si conferma questo Lillard, la cosa appare complicata per i Nuggets di Danilo Jokic, anche se nella notte del 4 aprile i Nuggets battono 134-131 i Pelicans di un Anthony Davis da 41 punti. Lo fanno grazie a 28 di Danilo, 21 di Jokic e 23 di Harris. Contemporaneamente Portland inciampa contro i Jazz per 106-87, complice la solita fondamentale prestazione di Rudy Gobert con 20 punti, 11 rimbalzi e 3 stoppate e i 30 punti di Gordon Hayward. Lillard tira male con 5 su 20 dal campo e la sfida tra le due per l'ultimo posto disponibile sembra veramente da decidersi negli ultimi match incrociati nella regular season. Tra l'altro Portland, l'unica sfida in programma contemporaneamente alle finali NCAA, era uscita sconfitta seppur di un punto contro i Minnesota Timberwolves di Karl Anthony Towns. Ad est, invece, tutto molto più incerto, anche se qualcosina si va delineando. E non potrebbe essere altrimenti, visto che mancano veramente 4-5 partite a squadra per la conclusione della stagione regolare. C'è una sfida per il primo posto di conference tra Boston e Cleveland, che verrà presumibilmente risolta stanotte nello scontro diretto tra queste due squadre. Il risultato è per noi oscuro, visto che al solito registriamo ed è mercoledì pomeriggio, ma voi quando ci starete riascoltando dovreste già avere qualche elemento in più per capire chi sarà la vincente di conference, visto che il nome uscirà probabilmente da chi prevarrà sull'altra in questa sfida. Cleveland è in ripresa dopo aver toccato il fondo nella scorsa settimana. Batte il 4 aprile gli Orlando Magic con tripla doppia di LeBron da 18 punti, 11 assist e 11 rimbalzi. 28 punti con 5 su 9 da 3 per Kevin Love, 24 per Kyrie Irving, 19 per un redivivo J.R. Smith da 5 triple su 8 tentativi. Ancora prima, spettacolare sfida tra i campioni in carica e gli Indiana Pacers di Paul George. In cerca di un po' di sicurezza in una classifica ad est sempre troppo in bilico. 135-130 il finale per i Cleveland Cavaliers con un LeBron James strepitoso da 41 punti, 16 rimbalzi e 11 assist. Dall'altra parte Paul George si esalta come ai tempi delle loro sfide in finale di conference tra Indiana e Miami di qualche anno fa. Chiude con 43 punti, 9 rimbalzi e 9 assist. Ci vogliono 2 overtime per chiudere la gara. Tutto il quintetto di Cleveland va in doppia cifra con da segnalare 6 triple per J.R. Smith e un Kyrie Irving da 5 su 20 dal campo. 20 punti e 12 rimbalzi per Kevin Love. Dall'altra parte arrivano 27 punti dalla panchina per CJ Miles e 17 con 11 assist per Teague. Per Indiana sconfitta preoccupante alla quale segue però una super e convincente vittoria su Toronto il 4 aprile, 108-90 con 35 punti di Paul George. La posizione dei Pacers risulta così stabile dentro il tabellone dei playoff, mentre quella di Toronto è al momento pari con quella di Washington in lotta per il terzo posto. Washington che nella stessa notte inguaia la rincorsa passa all'ottavo posto di Charlotte, malgrado un Kemba Walker da 37 punti, ma grazie a un super John Wall da 23 punti e 11 assist, i Wizards vincono 118 a 111. Proviamo quindi a rifare un attimo ordine. Sulla cima sono appaiate Boston e Cleveland in attesa di uno scontro diretto che, quando ascolterete la trasmissione, sarà già avvenuto e decreterà il momentaneo primo posto ad est. Per il terzo posto, momentaneo pari merito tra Toronto Raptors e Washington Wizards. I Boston Celtics invece sono stati ultimamente sempre vincenti, con le dirette potenziali concorrenti per un posto playoff, eccetto una sfida in casa persa contro Milwaukee Bucks, che al momento occupano la quinta posizione ad est. Si tratta di una squadra interessantissima guidata dall'ormai noto Giannis Antetokounmpo, privi da tempo e fino alla prossima stagione di una pedina fondamentale come Jabari Parker, ma aiutati dall'ottimo rendimento stagionale di Chris Middleton e del rookie Malcolm Brogdon. A parte i Bucks, Boston comunque ha recentemente sconfitto Miami, Indiana e Washington, in settimana da segnalare la vittoria per un solo punto sugli Orlando Magic e la vittoria contro i Knicks al Madison Square Garden con 19 punti di Isaiah Thomas in appena 24 minuti. Proprio il piccolissimo franchise player dei Celtics, autore di una prestazione strepitosa da 35 punti proprio contro i Magic, si mantiene nelle medie stagionali nelle ultime 8 gare disputate dei suoi, quasi 29 punti per la lacciata di scarpe. Tra Toronto e Wizards invece assoluta parità di risultati al momento. Come detto, per i Raptors l'ultima gara della stagione sarà contro i Cleveland Cavaliers, che potrebbero aver bisogno di vincere per garantirsi il primo posto ad est. Ci sono anche da affrontare altre due squadre in corsa teorica per un posto tra le prime 8 sempre ad est, come Detroit e Miami. Per Washington invece sono previste due sfide proprio contro i Miami Heat, una poi contro Detroit e l'altra contro una squadra che non dovrebbe aver niente da chiedere ancora alla stagione, come i deludentissimi New York Knicks. Proprio gli Heat si trovano al momento al nono posto, a battagliare per la posizione numero 8 e la posizione numero 7. Le contenders per gli ultimi due posti ad est sono, nell'ordine momentaneo di classifica, Chicago e Indiana, che sono momentaneamente la 7 e la 8, con a seguire, distanziate di appena una partita o poco più, Miami, Charlotte e Detroit. Sensazione mia, sarà Miami a giocarsi l'ultimo posto disponibile con una tra Chicago e Indiana, anche se le ultime due sfide in previsione con i Wizards in lotta per il terzo posto di conference potrebbero creare qualche difficoltà agli Heat. Apparentemente salve, ma non così distante dalla bagarre in coda, Atlanta e appunto Milwaukee, due squadre praticamente appaiate che si giocano la posizione 5 e 6 del tabellone. Staremo a vedere, anche perché ad oggi è piuttosto inutile e difficile provare a fare previsioni di incroci, soprattutto per quanto riguarda la Eastern Conference. In settimana prossima chiuderemo la registrazione della consueta puntata di NBA Week il pomeriggio prima dell'ultima notte NBA, ma non temete, il giorno seguente registreremo un contributo con gli amici di Fanta Bar Sport, un podcast di previsioni su calcio e pallacanestro, anche ovviamente NBA. Ovviamente sapremo darvi nella prossima puntata, nella nostra pagina Facebook NBA Week e nel nostro blog medium.com/NBA Week, tutti gli estremi per ascoltare il podcast in cui saremo presenti, appunto degli amici di Fantabar Sport. Sarà un modo per fare il punto definitivo della situazione rispetto al tabellone ufficiale dei playoff e per offrirvi le mie personali previsioni a livello di pronostici, anche relativi agli awards stagionali. Non perdetevela, perché come al solito non ne azzeccherò una di previsioni e quindi poi potrete allegramente infamarmi in futuro con molto più gusto. In avvicinamento ai playoff, come rimembranza della settimana, restiamo sulle statistiche ed analizziamo, andando ad indagare, i record personali di tutti i tempi rispetto alla postseason NBA. Chissà che quest'anno qualcuno mai decida di riscrivere qualche pagina del libro di storia del gioco. Il numero maggiore di punti in una singola partita nella storia dei playoff, lo sappiamo tutti, appartiene a Michael Jordan e a quella pazzesca partita persa dai Bulls al Boston Garden del 1987. MJ ne segnò 63 di punti. Jordan è in testa anche alla classifica del totale punti di sempre, con 5.987 punti in 179 partite di playoff. Record che potrebbe anche essere spazzato via da LeBron James, anzi accadrà sicuramente in prospettiva, che al momento è quarto in questa speciale classifica con 5.572 punti in 199 gare ad oggi disputate. Solo un altro giocatore in attività è nella top 10. Si tratta di Tony Parker, con 3.885 punti in 213 partite. All'undicesimo posto c'è Dwayne Wade, con 3.781 punti totali in 166 partite, che quest'anno però non potrà migliorarsi, anche se i Bulls riuscissero a qualificarsi ai playoff, avendo chiuso la stagione anzitempo causa infortunio. Per media punti MJ sempre in testa, con 33.4 punti di media, tralasciando che in teoria al secondo posto c'è Anthony Davis con 31.5, seppur in solo 4 gare disputate in carriera, da segnalare un LeBron James al sesto posto e un Kevin Durant al quinto, LeBron con 28 punti secchi di media partita, Kevin Durant con 28.8 per gara per un totale di 91 partite. Parlando di assist, il leader statistico per media assist nei playoff è Magic Johnson, con una media di 12.3 in 190 gare. Al secondo posto ci sono, con 182 partite disputate, anzi c'è John Stockton con 10.1 assist di media. Il primo tra i giocatori in attività sta al terzo posto ed è Chris Paul con 9.4. Per quanto riguarda gli assist totali di Magic, lui ne ha smazzati 2346 ed è il numero uno ogni epoca. Stockton 1839, ma al terzo posto c'è il signor LeBron James, destinato a migliorare i suoi personalissimi 1348 assist in 199 gare. I rimbalzi: Bill Russell è il numero uno ogni epoca con 4104 rimbalzi in 165 partite, seguito da Will Chamberlain con 3913 in 160 gare. LeBron anche qui appare come il primo in attività, è al nono posto con 1758 rimbalzi totali. Sopra di lui, facilmente sorpassabili, ci sono Robert Parrish e Wes Unseld. Le medie di Russell e Chamberlain sono un qualcosa di pazzesco: 24.9 rimbalzi per gara di media in ogni partita giocata nei playoff per Bill Russell, numero 1, 24.5 per Will Chamberlain, storicamente inarrivabili. Chiudiamo con una statistica molto molto interessante: il record di triple medie messe a segno per partita è di Steph Curry, che in 58 gare in carriera ha una media di 4.2 triple realizzate a gara nei playoff. Dietro c'è il compagno Splash Brother Klay Thompson con 3.1. Per quanto riguarda i totali, migliori ogni epoca è ovviamente Ray Allen con 385 triple su 959 provate, 40% in 171 partite. Dietro a lui Reggie Miller con 320 triple su 820. Il terzo è in attività ed è Manu Ginobili con 309 triple totali in 197 gare. Per trovare LeBron James, che è praticamente in tutte le statistiche dei playoff storiche quantomeno vicino alla top 10, in questo caso dobbiamo scendere al quinto posto: 287 canestri da 3 in 199 partite. Tra le singole prestazioni in una gara, oltre ai 63 punti del già detto Michael Jordan, il maggior numero di rimbalzi di sempre in una singola partita li ha presi ovviamente Will Chamberlain, 41 contro i Philadelphia 76ers nel 67. Il record di assist in una singola partita è a 24, prodezza compiuta sia da Magic Johnson contro i Phoenix Suns nell'84, sia da John Stockton contro i Lakers proprio di Magic nell'88. Il record di recuperi appartiene invece ad Allen Iverson, 10 contro i Magic nel 99. Per quanto riguarda le stoppate, il record è fermo a 10 ed appartiene a pari merito a Mark Keaton di Utah nell'85, Hakeem Olajuwon nel 90 e Andrew Bynum dei Lakers nel 2012 contro Denver. Rispetto ai punti, il giocatore che in una singola serie ha fatto registrare la media punti più alta è stato Jerry West dei Lakers, che nel 1965 si attestò sui 46.3 punti per gara nella serie tra Lakers e Baltimore Bullets. In una finale invece il record resta in mano a Michael Jordan contro Phoenix nella finale del 1993 con 41 punti di media in 6 partite. Il maggior numero di partite playoff giocate è di Derek Fisher con 259 totali, il maggior numero totale di minuti è di Tim Duncan con 9174 minuti, la media minuti per partita più alta in campo è di Will Chamberlain con 47,24 minuti, praticamente ha giocato sempre. Rispetto ai record realizzativi, Jordan la fa comunque da padrone, è andato in carriera 8 volte oltre 50 punti, 38 volte oltre 40 punti e 109 volte oltre i 30 punti, si tratta di 3 record ovviamente. Il maggior numero di gare da almeno 10 punti invece di Tim Duncan con 237. LeBron invece detiene già il record per il maggior numero di partite con almeno 20 punti, 176 sulle sue attuali 199 disputate. Chiudiamo ricordando che la franchigia con il maggior numero di titoli NBA vinti nella storia sono i Boston Celtics con 17, che detengono anche il maggior numero di titoli consecutivi vinti e sono 8. La squadra con più finali disputati sono i Los Angeles Lakers con 31. La squadra con il miglior record in finale sono ovviamente Chicago Bulls con 6 finali vinte su 6 disputate. Benissimo, ci risenteremo la prossima settimana per fare il punto definitivo sulla regular season prima di iniziare l'avventura playoff che dovrebbe tenerci insieme per i prossimi 2 mesi più o meno. Vi ringrazio ancora una volta per l'ascolto, vi invito a seguirci ovviamente su Radio Big World tutti i giovedì sera alle 21.30 nel flusso streaming, contemporaneamente dalla mattina dopo in podcast, contemporaneamente sul nostro blog medium.com/NBAweek, dove tutti i venerdì si pubblica un blog post settimanale con i video principali della settimana passata e con le possibilità di ascolto della trasmissione nelle varie piattaforme ospitate come quella su YouTube grazie a Belli13. Un saluto ancora e un ringraziamento, ci sentiamo la settimana prossima con NBAweek.